到这些前辈 consolatico e sei convinto che non ho la forza necessaria per rifiutare ancora la tua violenza innata e corre il vento, corre il senso, corre il vuoto che mi opprime un'insaziabile ferme